Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Altra cosa, nel preludio di Debussy, il momento in cui l'armonia è esposta perfettamente è quando questa cattedrale compare. Estremamente sospese. Io adesso suono soltanto la parte acuta. Abbiamo lo stesso carattere e sono note molto simili a quelle dell'inizio. Ma quando vuole raccontare della visione di questa cattedrale, mette il terzo grado. E gli accordi sono pieni. Non è più qualcosa di così lontano, ma è qualcosa che fa parte del nostro sentire, di quello che siamo abituati a percepire. Ecco quindi una scrittura che si avvale della possibilità di non usare la modale, il terzo grado, e quindi attraverso la mancanza di questa nota racconta qualcosa che sembra arrivare da molto lontano. Si avvale di una scrittura del Novecento con lo scampanio. Queste note sovrapposte che creano dissonanza, ma la dissonanza è di un suono non perfettamente intonato come quello della campana, e poi riprende la tonalità con la modale. Quando vuole raccontare qualcosa di estremamente vicino, cioè come se noi fossimo davanti a questo edificio, ma lo potessimo vedere da vicino. Poi c'è il raccoglimento. L'idea di una fuga. Questa è Bach, quella che vi ho fatto sentire, che viene ripresa. Con Debussy. Un compositore, quando lascia una pagina stampata, quando dà all'editore un proprio lavoro, vuole essere certo che ogni nota rappresenti quello che ha intenzione di dire, quello che ha intenzione di comunicare. E ogni nota può portare a soluzioni differenti. In questo caso, tutto quello che è stato scritto da Debussy in questo brano è limato, ragionato, riscritto, in modo da poter arrivare, attraverso la grammatica dei suoni, a esprimere quello che Debussy ha in mente. E tra l'altro, proprio nel finale, abbiamo questa serie di accordi senza definizione, che si alternano a degli accordi perfettamente consonanti. Di nuovo un accordo senza definizione. Un altro perfettamente consonante che rimane nell'aria mentre c'è un accordo neutro qua sotto. Quasi come se si mescolassero i due tipi di scrittura. La scrittura con un sistema modale determinato e una scrittura vaga, con dei suoni non definibili dal punto di vista della modalità. Ecco, Bach è stato un punto di volta per quello che riguarda la scrittura, proprio perché attraverso le proprie opere, che hanno celebrato, tra l'altro, il sistema temperato, ha determinato un modo di scrivere, di comporre, che è stato un elemento imprescindibile per tutti i compositori che sono venuti dopo. Basti pensare che Schumann, c'è un poster che adesso si trova in certe scuole di musica, sono le regole di vita musicale scritte da Schumann ad uso dei giovani, insomma dei fanciulli in età da educazione musicale, e uno di questi punti è non lasciare passare un giorno senza aver suonato il preludio e fuga di Bach. La stessa cosa più o meno la diceva Chopin, che non iniziava una giornata di lavoro senza avere lavorato qualche brano di Bach. E pensare che molto spesso i compositori hanno vissuto di una fama ritrovata dopo decenni dalla loro morte. Basti pensare che una vera e propria riscoperta di Bach, così come lo viviamo adesso, è stata proprio tipica del periodo di Chopin e di Schumann, grazie a Mendelssohn, che ha diretto le varie passioni di Bach. Ma negli anni di Mozart e di Beethoven era tutto sommato meno vissuto Bach, però non da Mozart, non da Beethoven. Mozart trascriverà 5 preludi e fuga di Bach per quartetto d'archi. Dicevo che le fughe sono a 4 voci a volte, e le 4 voci possono essere i 4 strumenti del quartetto d'archi: primo violino, secondo violino, viola e violoncello. Lo stesso Beethoven, soprattutto negli ultimi anni di vita, si avvicinerà moltissimo allo stile compositivo di Bach. La sonata opera 101, la quint'ultima sonata, ha all'interno dell'ultimo movimento una piccola fuga. La sonata opera 106, la sonata alla Hammerklavier, la sonata monumentale, ha come quinto movimento una grandissima fuga, di una difficoltà spaventosa. La sonata opera 110 ha all'interno dell'ultimo movimento 2 piccole fughe, dei veri e propri omaggi a Bach. Beethoven, che negli ultimi anni di vita ha una vera e propria fonte di ispirazione dalla musica di Bach. E il più bello omaggio che Beethoven ha dato a Bach, al di là del celebrare a sua volta la fuga come elemento della propria composizione, è nella sonata opera 109, che è un vero e proprio grande omaggio a Bach. Beethoven a poco nel corso della propria vita ruppe gli schemi della forma sonata, quella forma in 4 movimenti che era data da un allegro iniziale nel primo movimento, da un adagio nel secondo movimento, un minuetto nel terzo e un rondò nel quarto. Dicevo che i compositori potevano anche liberarsi dalla forma sonata, nel senso che potevano decidere di scrivere una sinfonia o un brano da camera in 3 movimenti invece che in 4, e di solito eliminavano il minuetto, la danza. Qualche rara volta il primo movimento e cominciavano da un adagio. Ecco, con Beethoven la forma sonata viene rivoltata e reinventata. Decide di sostituire il movimento lento, di metterlo al terzo posto e mettere al secondo la danza. Comincia a scrivere dei minuetti che non sono più dei minuetti, minuetto una danza in 3, molto comoda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Scrive dei minuetti o comunque delle danze che hanno il ritmo di minuetto, sempre in 3, ma talmente rapido, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Non è più una danza ballabile, e lui lo chiama scherzo. E lo scherzo prende proprio il peso del brano che sostituisce pienamente il minuetto. E poi, a poco, comincia a inserire al posto dell'allegro iniziale un tema con variazioni, oppure al posto del lead del secondo brano, che poi diventa il terzo, un tema con variazioni, l'appassionata, sonata in 3 movimenti a un allegro, un tema con variazioni come secondo movimento e un altro allegro alla fine. Ecco, quando arriva negli ultimi anni di vita, Beethoven ha completamente ormai distrutto quello che è la forma sonata e, solo per citare la 109, scrive una sonata in 3 movimenti con un primo movimento che è difficilmente definibile, è una sorta di fantasia. Una fantasia che è quella fantasia come si usava all'epoca di Bach. Una fantasia che, come nel preludio in Do maggiore, abbiamo una serie di arpeggi. Sono quasi un'improvvisazione da parte di Bach. Ecco, con Beethoven abbiamo una sorta di improvvisazione. Una melodia c'è. Ma inserita in mezzo a una serie di arpeggi che in maniera un po' più evidente ottiene l'effetto di Bach nel preludio in do maggiore. In Bach la melodia non c'è, però riusciamo quasi a intuirla, anzi Gounod la intuisce del tutto. Non fa altro che dare una voce alla nota superiore del preludio. Beethoven una melodia la inserisce però all'interno di un movimento di arpeggi che richiama la fantasia di Bach, o quella che troviamo anche in Mozart. Qualcuno di voi ha avuto una pratica pianistica, forse ha avuto modo di suonare un brano che non è particolarmente difficile di Mozart, che è la fantasia in re minore. Quasi come se fosse una libera improvvisazione. Ecco, Beethoven comincia una sonata con quello che sembra una libera improvvisazione, quasi un'improvvisazione bachiana, e prosegue con un recitativo, una parte che a volte in Bach troviamo tra una toccata e la fuga. Un brano che sembra anche quella una improvvisazione, ma ancora più libera di una fantasia. Con delle piccole scale, in modo molto libero. E questo è il primo movimento di una sonata che all'epoca di Beethoven aveva la caratteristica di essere un brano con un'architettura solida. Esposizione, sviluppo, riesposizione, all'interno dell'esposizione un tema A, a cui faceva seguito un tema B, poi c'era la coda, lo sviluppo era la elaborazione del tema A e del tema B, insomma c'erano delle regole precise di cui Beethoven si disinteressa, almeno apparentemente, si disinteressa completamente. Mettesi una prima linea melodica, ne mette un'altra, ma all'interno di quello che è una struttura veramente libera, di fantasia quasi. Poi scrive un secondo movimento, un movimento in teoria del tempo lento. Beethoven, il secondo movimento è questo. Lento non è. La cosa che notiamo se lo eseguo un pochino più comodamente, senza la caratteristica del prestissimo che vuole Beethoven e senza questo fortissimo che chiede Beethoven, quasi a voler rompere degli schemi di sonorità conosciute, questo ritmo è il ritmo della giga, che era la danza che chiudeva le suite di Bach e le chiudeva con un carattere brillante, punto, tre, punto, tre, punto, tre, punto, tre. Però chiaramente non con questo slancio, questo impeto. È un po' la stessa cosa che ha fatto nel minuetto, quando dal minuetto è passato a un qualcosa che è diventato lo scherzo, che era un qualcosa che non stava più dentro al ritmo del minuetto. Qua non c'è più una giga che stia dentro al ritmo della giga, ma da lì trae memoria, e la giga era uno degli elementi che componevano la suite. Le suite, le partite, erano l'elemento abituale della musica di Bach. A questi due tempi ne fa seguito un terzo. con cui chiude la sonata. E questo terzo movimento è un tema con variazioni, di per sé niente di originale, aveva già cominciato delle sonate con un tema con variazioni, l'aveva messo come secondo movimento in un'altra sonata, dicevo l'appassionata appunto, qui lo mette come brano di chiusura. Il tema con variazioni che usa Beethoven è questo. Posato, è un corale, altra forma di Bach, è un corale a tre parti, una parte superiore, una parte inferiore, una parte bassa, e una parte di ripieno all'interno. Anzi, suonata da sola. Tutte e tre insieme. Veniva riproposto, non nello stesso modo ovviamente, ma con o l'aggiunta di note diverse o si passava dalla tonalità maggiore alla tonalità minore, quindi una tonalità più scura. Era imprescindibile, ci doveva essere un passaggio dalla tonalità maggiore alla tonalità minore. Poi veniva eseguito in modo più brillante rispetto a quello che poteva essere l'origine, in modo per contro più lento, più posato. Erano fondamentalmente delle variazioni sulla stessa melodia basate più che altro sull'andamento o sulla fioritura, cioè sulla aggiunta di note in quel tema, a volte anche nello stesso tema con delle note eliminate. Invece Beethoven che fa? A questo corale fa seguire delle variazioni, che sono ogni variazione un elemento della poetica di Bach. E quindi abbiamo una prima variazione che è un'aria. L'aria all'epoca di Bach era un brano per solista con un accompagnamento di basso continuo. Conoscerete o avrete sentito senz'altro l'aria sulla quarta corda. In questo caso una melodia con accompagnamento. Che è quasi un preludio. Chiaramente note diverse, ovviamente. Però con un andamento che ricorda questo preludiare, questo brano quasi di fantasia. E poi prosegue con quello che è il brano brillante, la toccata. pratica ogni variazione presenta una caratteristica della composizione bacchiana. La quarta variazione è una invenzione a tre voci, un brano che è come se fosse scritto per tre cantori, in questo caso un'estensione del registro tale da non poterlo rendere umanamente eseguibile, però comunque per tre voci. È una vera e propria fuga, elemento usato da Beethoven in omaggio a Bach. Sesta variazione si richiama al Quodlibet delle variazioni Goldberg, quello che è uno dei monumenti della scrittura della composizione bacchiana. Normalmente le variazioni erano un tema seguito da brani che variavano questo tema, quindi un certo numero di variazioni potevano essere 4 come potevano essere 30. Beethoven scrive alla fine di queste 6 variazioni di nuovo il corale che ha presentato all'inizio, e c'è soltanto un altro caso precedente a questa tipologia di struttura, cioè quando il tema viene riproposto alla fine. Il tema delle variazioni Goldberg. Le Goldberg hanno un tema iniziale, 30 variazioni, e alla fine, cosa assolutamente anomala, viene ripreso il tema iniziale. Beethoven, in modo assolutamente anomalo, ma evidentemente in omaggio dichiarato a Bach, alla fine riprende il tema scritto all'inizio. Questa sonata, l'opera 109, è uno dei punti più alti della scrittura di Beethoven, insieme alla sonata opera 110, insieme alla sonata opera 111. Però sono tre sonate che hanno praticamente stravolto quello che era la forma conosciuta fino allora e hanno dato praticamente l'avvio a quello che è il romanticismo, dove la forma non esiste quasi più. Ogni compositore era libero di scrivere secondo la forma architettonica desiderata. Ma sono sonate che Beethoven diede all'editore in tempi ravvicinatissimi, infatti una è l'opera 109, l'altra l'opera 110, l'altra l'opera 111, quindi tre numeri di catalogo vicinissimi, e che Beethoven scrisse contemporaneamente nello spazio di 2 anni, tra il 1819 e il 1821. Ed è notevole come alcuni elementi dell'opera 110 riecheggiano nella 109 e viceversa, o si ritrovano certi gli stessi elementi nella sonata opera 111. Ecco, sonate che Beethoven diede all'editore dicendo che erano sonate che lui dava alle stampe perché aveva bisogno di guadagnare, aveva bisogno di pagare la propria quotidianità. In realtà con queste sonate Beethoven ha creato i più grandi monumenti della storia del periodo classico in musica, ovviamente insieme ai suoi ultimi quartetti, alla nona sinfonia, alle variazioni su un valzer di Diabelli scritte negli stessi anni. Avete ascoltato? Guida all'ascolto della musica classica. 3 secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.